24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Siamo qui. Sono le 6:35 minuti. Buongiorno cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 come sempre. La nostra Miriam Lucchetti è lì di là del vetro col nostro Filippo Aureggi. Sapete che abbiamo rottamato l'Alpino in tempi di rottamazione. Questa con grande gioia, immagino, di Paola Saluzzi, che saluto. Buongiorno Paola. Buongiorno, ma buongiorno, come con rispetto di Filippo Aureggi, ma insomma non rottamate gli alpini. Gli alpini, no, sono ma perché? L'alpina dorsale del nostro paese, su via. Ma infatti l'abbiamo... Buongiorno Alessandro. No, ma l'abbiamo messo alla sera, tornerà. Saluto anche il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, eccoci, buongiorno direttore. Buongiorno. Mi raccomando, non rottamate noi perché ci siamo... No, vabbè, insomma, siete, cosa siete? Temete già l'età. Vabbè, comunque apriamo il nostro bar qui, che siamo un po' in ritardo con l'apertura del nostro bar. Il caffè volentieri a tutti quanti. Il caffè offre, come sempre, Nicole Minetti, come avete capito. Allora siamo con Paola Saluzzi, conduttrice di Sky TG24 pomeriggio, e poi con Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, e vi voglio mettere subito di buon umore. Avete sentito l'ultima di Fiorello che canta? Non so se... No. Ma ve la faccio sentire meglio, così ve la faccio sentire io. Allora, Fiorello ha inventato il nuovo inno della regione Lazio. Ieri era in una scuola a parlare di legalità, invitato dalla Guardia di Finanza. Eccolo qua, l'inno della regione Lazio, canta Fiorello. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati insieme soldi, i beni amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e con Fiorito se ne sta. Soldi, soldi dalle nostre tasche, tangenti, donne, whisky, festini ed odarischi, perché... Paola, puoi cantare se vuoi. Facciamo il karaoke, dai, il karaoke. La tentazione è forte. Senti ancora. Spendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono, però cieli, regina cieli, prima o poi la finanza arriverà. Poi la finanza arriverà. Eccoli. Ma non è finita. Sì, è finita. Viva i soldi, eccoci qua. Allora, iniziamo così con un po' di buon umore, Paola. Ecco, mi sembra un modo geniale, non è usato a sproposito. Ma è un inno perfetto, mi sembra. Inno perfetto, e soprattutto visto che l'impegno era con la Guardia di Finanza per parlare ai ragazzi di legalità e di buon uso della cosa pubblica, Rosario ha trovato il modo, insomma, la sua solita maniera, e quindi come tale ha trovato il modo. Insomma, resterà impresso nella mente di quei ragazzi. Sempre meglio vederla così col sorriso rispetto a, invece, sapete cosa ha fatto? Vi faccio sentire anche questa. Franco Barbato, che è un deputato dell'Italia dei Valori, uno che va sempre sopra le righe quando fa le dichiarazioni. Sentite che cosa ha detto Luca Dini, sentite cosa ha detto ieri in Parlamento. Formigone vuole tornare in campo? Allora, i vari formigoni scopelliti io li farei ritornare in campo, ma in un campo di concentramento. Ecco. Luca Dini, ma nel giorno ieri, nel giorno in cui si ricordava, si commemoravano il ghetto di Roma, rastrellato dai nazisti per mandare a morire gli ebrei nei campi di concentramento, cosa dice Barbato? Li metterei in un campo di concentramento. Ma siamo arrivati a questo livello? Beh, insomma, poi anche l'Italia dei Valori qualche problemino ce l'ha avuto, quindi insomma mi sembra veramente una cosa totalmente fuori contesto, abbastanza agghiacciante. Il livello è questo qui, però, anche dal punto di vista della comunicazione. Siamo arrivati a un uso del linguaggio, non lo so, che cos'è la campagna elettorale che si avvicina, il clima che si surriscalda come al solito. Cioè, perché uno deve fare un'uscita del genere? Non lo sappiamo, dovremmo chiederla a lui. Ma secondo ma te è l'idea che alzare i toni serva sempre. Invece io ho la sensazione che i cittadini siano anche stanchi di queste sparate. Credo proprio di sì. Cioè, credo proprio di sì. Un dibattito nella notte in cui c'è stato il dibattito americano, non so se voi l'avete seguito, io no, però qua in redazione ovviamente l'abbiamo seguito, nella quale ci si confronta, no, tra i due candidati in America, sul programma, sulle cose da fare. Qui in Italia i toni aumentano così. Tu, Paola, l'hai notato tra i tuoi ospiti? C'è questo clima un po' effervescente? Alessandro, questo intanto perfettamente in accordo con il direttore Luca Dini. C'è questa incandescenza, ecco, mi sembra giusto definirla così, che purtroppo capita spesso, io mi metto, non dico in testa alla lista, ma purtroppo succede, capita di veder fare un uso improvvido delle parole e dei significati delle parole, ecco, non so come dire, oltre all'infelicità della data, della coincidenza della data, però il concetto di campo di concentramento è, per alcuni ragazzi purtroppo sembra una notizia da videogioco, perché evidentemente non viene spiegato abbastanza bene. Per quelli un po' più grandi, noi, o quantomeno insomma alcuni appartengono a questa generazione, forse andrebbe altamente limitato. Temo che per tutto il prossimo periodo, ahimè, ne vedremo delle brutte, non delle belle, ne sentiremo delle brutte, non delle belle. Sarebbe bellissimo vedere una retromarcia generale che riporterebbe un suono migliore nelle nostre orecchie. Abbiamo appena sentito come sia piacevole sentire una canzone rimaneggiata. Cioè, si può fare ironia così, ma infatti, è un contrasto incredibile. Io l'ho messo apposta insieme la voce di Fiorello, che ironizza su una cosa sulla quale ci sarebbe poco da ridere, anzi c'è poco da ridere, però vedete, si può ridere, si può sorridere anche di una cosa drammatica che riguarda un caso di presunta corruzione, di sperpero di denaro pubblico, e invece poi i campi di concentramento. Questo è, vogliamo, giusto per capire il clima, ieri cosa è successo da Mirta Merlino, anche lei nostra amica che conduce sulla 7 L'aria che tira. Sentite Salvini della Lega e l'assessore regionale alla sanità della Sicilia, che è un magistrato, un ex magistrato russo. Ieri Salvini parlava male della sanità siciliana senza conoscere le cose di cui parlava. Ma questo, ecco, da dove esce? No, però l'ho visto ieri a Quinto Potere. Da che albero scende questo? Da che albero scende la Salvini? Ma poi il clima ovviamente si surriscalda. C'è un limite, se io devo, per rispetto dei telespettatori, appunto, con i problemi che hanno gli ospedali in Sicilia, ma non dica stupidarsi di Sicilia. Va tutto bene in Sicilia. La sanità ha più problemi con D'Accordo, Fondazione Mauro. Va bene la sanità siciliana, va bene la sanità degli scandali Lombardi. Vabbè, poi è finita, Luca Dini, è finita che Salvini se n'è preso, si è alzato, se n'è andato. Ma ci avevano detto che con questi tecnici ci avevamo recuperato un po' di sobrietà, almeno il recupero di parlare delle cose che contano. Poi invece si ritorna qui, la politica ritorna a questo. Poi del resto Salvini forse dovrebbe magari dare qualche spiegazione sul comportamento della Lega, sulla cecità della Lega in tante cose che sono successe in Lombardia, insomma, prima di trattare così una persona è veramente un po' è il livello un po' così. D'altronde il clima è quello che è. Non lo so come si può trovare di parlare delle cose belle. Oggi sono arrivati i titoli dei giornali. Vi dico questa, secondo me può rischiare di diventare la battuta del giorno, con tutto il rispetto per il ministro all'economia Grilli, che oggi viene intervistato dal Sole 24 Ore. Sentite che cosa dice a proposito della legge di stabilità, il fatto che le detrazioni, la stretta sulle detrazioni è retroattiva, e questo il Sole l'ha denunciato e il governo ha confermato, è retroattiva. E ovviamente il Sole 24 Ore chiede conto, dice: ministro, ma come, perché è retroattiva questa cosa? La risposta del ministro Grilli è questo: è un'eccezione allo statuto del contribuente? Beh, ma le eccezioni allo statuto del contribuente negli anni sono la regola piuttosto che l'eccezione. Capisci? E quindi, come dire, Luca Dini, siccome è sempre stato così, anche noi facciamo così. Questi sono i tecnici. Soprattutto in materia di fisco in Italia è sempre stato così. Cioè la regola non c'è, è sempre una sorpresa o... A volte a favore dei furbi, a volte insomma a danno di tutti. Ma questi tecnici piacciono, secondo te? Piacciono alla gente? Ci sono i sondaggi, eccetera. Piacciono o no? Piacciono come male necessario, diciamo, come sacrificio necessario. Io continuo a pensare questo. Onestamente, questa cosa della retroattività non credo sia piaciuta molto, a me piacerà molto. Però rimango dell'idea che che gli italiani siano molto più disposti ad accettare dei sacrifici se li vedono finalizzati a una, alla soluzione di un problema. Alla soluzione del problema. Non so, Paola, tu hai questa stessa sensazione? Perché è vero, sono un male necessario, è brutto definirli così, però, no. però la situazione no, diciamo che sono il medico che evidentemente ci voleva per il malato. Nel senso che, ma sta curando questo malato, perché è qui che inizia a sorgere il sospetto di molti italiani. Alessandro, se stia curando lo si scoprirà non neanche in tempi lunghi, insomma i tempi sono abbastanza brevi. Sulla retroattività, si è contenti di una retroattività solo quando questa ti restituisce denaro che tu avevi già pensato volato via, insomma, ecco, sarebbe bello vedere la retroattività, è bello, lei ha dato di più e noi le restituiamo i soldi, ecco, sarebbe bella nell'altra lettura. È sicuramente una cura durissima. Secondo me, volendo rimanere in ordine di totale ottimismo, che già a partire dai primi mesi, da metà del 2013, darà i suoi risultati. Quindi la politica arriverà in tempo per vedere dei risultati che sono già arrivati e per comportarsi in maniera assolutamente, come dire, sobria, come stanno dimostrando, sobria, come stanno dimostrando in vari dibattiti, per riprendere, no? Certo. Quei dibattiti rovinano, poi c'è anche una politica, non voglio dire gentile, ma operativa, ecco, forse che non fa troppo rumore. Il problema è che chi strilla si sente di più. No, ma è chiaro. Io dopo il traffico devo rientrare con una domanda. Preparati, Paolo, ti devo fare una domanda. Molto... Su Brad Pitt che fa la pubblicità. Ma come fai a sapere? No, ma porca miseria! Ma sembra tutto combinato. Ma cosa mi leggi nel pensiero? Sì, ma vabbè. Andiamo. Leggo tutti i tuoi tweet. Sì, vabbè, ha letto i tweet, ma ha fregato su Twitter, vabbè. Desiderate qualche cosa? Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor? Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un goccio di fermento, è uguale. E allora, vabbè, la domanda sì è questa. Siamo con Paola Saluzzi, siamo con Luca Dini. Ecco, la domanda ovviamente è: indovina che cosa indossa a letto Brad Pitt? Questa è la domanda che... Puoi dire ciò che vuoi. Posso dire ciò che voglio? Sono contentissima. Allora, io direi che... No, perché questa è la copertina di Vanity Fair, con questa domanda. Una delle tante copertine di Vanity Fair da tenere come carta da parati. Eccola. Perché il concetto è questo. Bisogna srotolarne alcune, direi tutte, ma... È la fase in cui le donne si sentono più felici. Perché voi pensate che c'è un uomo come quello che ti dice... ti guarda vestito di una sola camicia, voglio dire, presumo bianchi pantaloni, ma in ogni caso anche la cintura estasiate. Sì. E poi si può sempre andare a fare colazione al mulino dove c'è un altro, come dire, posso dirlo? Non lo dice a te, cioè non è che si sta rivolgendo a te Paola Saluzzi, ma non è vero, Luca, ma perché invece... non è vero. È così, invece guarda dritto, vuoi guarda, vedere dritto che sta negli occhi, proprio a me. Sì. Luca Dini, vedi Luca Dini, le freghi tutte così, cioè, ma non sta parlando a Paola Saluzzi, Brad Pitt in copertina, invece questa pensa di sì. Ho giocato facile, vabbè. Vabbè, insomma, cosa indossa a letto poi Brad Pitt? Si può dire che non sia pubblicità, ma chi se ne frega? Testimonial dello Chanel numero 5. Ah, vabbè, la prima volta che un uomo testimonia di un prodotto che è un'icona, diciamo, della storica, leggendaria della seduzione femminile. Quindi è una cosa che ovviamente sarà stato sicuramente ben pagato, però ci vuole una certa sicurezza in se stessi per fare una scelta così, insomma. Capito, Paola, è anche un uomo sicuro. Sì, guarda, lei a tutte è sicuro, sa parlare, sa guardare, si sa pettinare, tutto quello che volete. C'è un momento di stasi nel momento in cui in redazione va in onda questo spot, questo ve lo dico da ieri, per cui c'è un momento di... si va un po' in bambola, almeno diciamo la parte femminile, ho capito, non di lavorare. Esatto, quindi non si lavora. So che fate già il limbo, perché mettono... dovete seguire su Twitter, Paola Saluzzi, mettono il filo del telefono e fanno il limbo. Si fa pettinare. Sì. La bambola di Brad Pitt, Paola Saluzzi. La bambola di Brad Pitt. Direttore, come hai fatto a scoprire questa cosa? Dopo la Barbie, la bambola di Brad Pitt. Recuperiamo un contegno, insomma, in questa trasmissione, ormai è tutto sfuggito di mano. Vi devo far sentire questo. questa, vi devo far sentire questa di D'Alema, D'Alema, perché vi voglio sentire il parere vostro in chiusura veloce sulla rottamazione. D'Alema, sentite D'Alema. Sono d'accordo con Bersani. Beh, Presidente, però, ha detto esattamente quello che si deve dire, cioè queste sono decisioni che aspettano il partito. D'altro canto la procedura è scritta nello statuto. Vabbè, la prende così. Ma sapete, sai Luca che battuta circola che avrebbe detto D'Alema di Bersani? D'Alema dice così di Bersani, secondo il Corriere della Sera. Certo, ora abbiamo Monti che parla in inglese, poi avremo Bersani che parla in emiliano. Il solito D'Alema. Questo è D'Alema proprio, che sembra voglia rimanere lì per far perdere Renzi. È la sua ultima mission all'interno del Partito Democratico. Ma questa disfida di D'Alema, Luca Dini, come la vedi? Va rottamato o è brutto dire così? Io penso di sì, ma... lo sa anche lui, certo l'uscita di Bersani credo che in realtà sia stata una vera insomma barilata in faccia per lui, però è un fatto che c'è una decisione che è stata presa e va rispettata. Io anche credo che la sua intenzione sia di andarsene portando con sé anche Renzi. Sì, è tipico, è un po' tipico devo dire del carattere di D'Alema questo. No, Paola Saluzzi, condividi oppure no? Cioè, crollo io e vabbè, mi porto giù qualcuno se capita. Nel allora, crollo. Per riprendere il finale dello spot di cui parlavamo prima, inevitabile. Potremmo dire. Ora immaginatevi alcuni di questi protagonisti di cui parliamo appunto con la camicia grigia in bianco e nero che dicono inevitabile, no? Tornando invece alla politica. E insomma, il problema è perché non si parlano prima, cioè aspettano di parlarsi tramite... io ho sentito... che lui ha detto di me, ma telefonatevi. Lo so, telefonatevi. Ma no, qui chissà, magari stai telefonando. Io ne parlerò alle 8:30 oggi. E intanto vi ringrazio. Luca Dini, direttore di Vanity Fair, che trovate da oggi in edicola, il nuovo numero con Brad Pitt, l'avete capito, in copertina. E Paola Saluzzi, oggi con Sky TG 24 pomeriggio. Seguitela. Mercoledì 17 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore ha una doppia apertura. C'è il presidente di Confindustria Squinzi, nulla di incisivo per ripartire, ma a fianco anche l'intervista al ministro del Tesoro Grilli. Dalle dismissioni fondi per i crediti della pubblica amministrazione, dunque parla Vittorio Grilli, ministro dell'Economia e Finanze, più che del Tesoro, e poi vedremo cosa dice. Così cambiano le tasse, questa è l'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica invece Formigoni un altro scandalo, e anche il Messaggero, Lombardia nuova inchiesta. Libero, così il fisco spia ci entra nel conto. E poi la vicenda del PD, Bersani rottama D'Alema è l'apertura del Fatto Quotidiano, Bersani scarica D'Alema è l'apertura della Stampa. Mentre il Giornale sulla vicenda Sallusti e il rischio carcere, la casta dei politici ricondanna Sallusti, l'Unità invece una manovra spericolata, e così anche Avvenire gioca su queste parole, stabilità instabile. La legge di stabilità insomma è sotto l'occhio del ciclone, al centro del ciclone delle polemiche, ma su questo Vittorio Grilli ovviamente ha parlato col Sole 24 Ore, lo vedremo. Tra un po', prima voglio partire, visto che si parla tanto di rinnovamento, di rottamazione, c'è Matteo Renzi che ha scritto all'Unità in maniera molto piccata, voglio le scuse per quell'articolo che ieri abbiamo citato di Michele Prospero che definisce fascistoide il termine rottamazione. C'è uno però che sicuramente non ne vuole sapere per essere rottamato, e la sua spiegazione del perché decide di ricandidarsi è quantomeno singolare. Beppe Pisanu, che è stato presidente del Senato, tra l'altro, è il recordman di longevità al Senato, o meglio in Parlamento, tra Camera e Senato, siede lì da 38 anni e 152 giorni. Ieri era la presentazione di un libro di un altro giovanotto della politica, Ciriaco De Mita, e come scrive il libro, il nonno della casta, Pisanu, si candida ancora. Ecco, con quale motivazione? Sentite bene, cari ascoltatori, certo c'è... sicuramente anche dell'ironia. Pisanu dice così: in Sardegna c'è una famiglia che detiene il record della longevità E voi non volete permettere a un politico sardo di detenere un record della longevità politica? Ecco, allora Beppe Pisano si ricandida per questo. Vuole il record di longevità politica, se la dovrà vedere con chi, non so, con Andreotti, immagino, con altri. Comunque, scrive Brunella Bollolli su Libero, inchiavardato alla poltrona, ormai è chiaro che non la lascerà più e quando cesserà di deambulare resterà al Senato pure a dormire. Vista questa dichiarazione, in pratica Beppe vuole inseguire Consolata, che ha 105 anni ed è la senior della famiglia Melis di Perdas de Fogu, che appunto ha record di longevità in Sardegna. È in aula dal 1972, Libero fa anche i conti, l'abbiamo pagato 5 milioni di euro, immagino sia l'insieme degli stipendi di questi anni, e non si accontenta. La presentazione del libro di De Mita annuncia: batterò il mio record di longevità parlamentare. Vabbè, andiamo su una storia che trovate solo sul Corriere della Sera, mi sembra molto interessante, proviene dal mondo della giustizia o dalla cosiddetta giustizia riparativa. La trovate a pagina 22, Luigi Ferrarella racconta di una sentenza innovativa che proviene dal Tribunale di Milano. Il titolo dell'articolo è questo: il truffatore serve a tavola i poveri. I raggiri online di un DJ e il giudice decide così, servendo a tavola i poveri, si accorge delle vittime nel mondo reale. È una storia molto interessante, 16 mesi li dovrà comunque scontare, peraltro dopo i 4 anni e mezzo che si è già fatto, scrive Ferrarella, ma per poter accedere a questo patteggiamento dovrà servire per 300 ore i poveri in carne e ossa dell'Opera Cardinal Ferrari a Milano, proprio lui che per 106 volte ha truffato online altrettante vittime a lui invisibili e impalpabili dietro lo schermo del computer che maneggiava. Per la prima volta in tribunale una forma di giustizia riparativa si affaccia non nel settore minorile, ma in un processo ordinario e non per reati stradali, ma per una montagna di truffe. L'esperimento è stato ratificato ieri su proposta del PM dal giudice Claudio Galoppi, che ha accolto il patteggiamento a 1 anno e 4 mesi di un truffatore seriale online impossibilitato a versare un risarcimento in denaro, ma che si è reso disponibile a progetti di attività riparative. Questo ex DJ che scrive il Corriere aveva anche qualche notorietà in gioventù, era diventato un maestro, ha raccontato di essere caduto in questa spirale dopo aver perso il lavoro in discoteca a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza, ma intanto dietro il computer ha raggirato, e almeno 78 sono le truffe giudicate dal giudice, con una condanna a 4 anni e mezzo per truffa, ricettazione, furto, frode, indebito utilizzo di carte di credito, sostituzione di persona, insomma una serie di reati. Ma si è trovata questa forma di riparazione, così almeno servendo per 300 ore presso l'Opera Cardinal Ferrari pasti e pulendo i locali dell'istituzione che dal 1921 lenisce le difficoltà materiali di poveri e senza tetto, così potrà prendere contatto per il giudice con il mondo reale, servire alle persone del mondo reale in carne ed ossa, lui che si è trincerato dietro un PC per anni facendo truffe a persone invisibili, ignare, ora potrà prendere contatto invece servendo persone che può vedere in faccia. Il truffatore serve a tavola ai poveri? Beh, non so come voi la pensiate, secondo me è un caso di giustizia che spero, se non altro, comporti una pena che sia anche rieducativa per chi la subisce. Parliamo un po' di economia, c'era sempre la legge di stabilità sullo sfondo, è quella che più viene criticata e più in discussione in questo momento. Ieri, che cosa è successo tra l'altro in conferenza stampa al Consiglio dei Ministri? Una cosa un po' irrituale o strana per un Presidente del Consiglio come Mario Monti. Alla domanda di un giornalista sul fisco, cioè questa legge di stabilità in pratica aumenta o riduce le tasse tra IVA, IRPEF, detrazioni, deduzioni, alla fine gli italiani pagheranno più o meno tasse? Questa è la domanda giusta, precisa, di un giornalista che al Presidente del Consiglio chiede questo. La risposta di Mario Monti è stata testuale: lei ha sbagliato conferenza stampa o noi abbiamo sbagliato delegazione, il Ministro dell'Economia non è qui presente e la qualità della risposta che lui può darle è superiore a quella che io potrei darle. E insomma, il Corriere della Sera titola infatti a pagina 3 l'appello di Monti, il Premier, il fisco, chiedete a Grilli. E anche la Stampa a pagina 3, Monti, tasse più alte, chiedete a Grilli. E allora il Sole 24 Ore lo ha chiesto a Vittorio Grilli, l'unico evidentemente deputato a parlare, secondo il Premier Mario Monti, che è Presidente del Consiglio, ma evidentemente il Ministro dell'Economia e Finanze sicuramente è tecnicamente più adatto a rispondere a queste cose. Eccolo qui, trovate in prima pagina del Sole 24 Ore l'intervista al Ministro Grilli, affiancata alle critiche del Presidente di Confindustria Squinzi, che ieri in un'iniziativa, in un'assemblea confindustriale ha rimarcato e ha criticato, parlando di nessun provvedimento incisivo per la ripartenza. Ecco l'intervista di Grilli: dalle dismissioni fondi per i crediti da pubblica amministrazione. L'intervista è di Fabrizio Forché. Sento molte critiche, inizia così Grilli, ma ora che il testo della legge di stabilità è pronto per andare in Parlamento posso dire: questa è la composizione ideale delle misure fiscali. In principio volevamo solo evitare il previsto aumento dell'IVA del 2013, poi abbiamo pensato a un approccio più articolato per tenere insieme rilancio della domanda, equità e competitività. Ecco allora i tre interventi chiave: lo stop all'aumento di un punto dell'IVA, la riduzione delle aliquote più basse dell'IRPEF e la detassazione dei salari di produttività. Cioè, qui ci sarebbe da aprire una parentesi: viene sempre posto a questo punto l'aumento di un solo punto percentuale dell'IVA. Ci siamo scordati che c'era la spending review e ci avevano detto che serviva a scongiurare l'aumento di tutti e due i punti dell'IVA. Ora invece che è aumentato di un punto viene venduto come l'abbiamo aumentato solo di un punto, ma avevate detto che era zero a un certo punto. Comunque, ritorniamo sull'intervista di Vittorio Grilli, che poi trovate completa a pagina 3. Il punto nodale è quello della cosiddetta retroattività, cioè le strette sulle detrazioni sono retroattive secondo questa legge di stabilità, e giustamente Forché insiste su questo punto con il ministro Grilli. Questa è una violazione dello statuto del contribuente. E sentite come risponde il ministro: le eccezioni allo statuto del contribuente negli anni sono la regola piuttosto che le eccezioni, appunto. Purtroppo negli interventi fiscali la retroattività si rende spesso necessaria per ragioni di copertura. Non toccare l'anno in corso può rivelarsi problematico. Ma ancora lunedì, chiede il Sole, sembravate pronti a ripensarci? No, non c'è stato alcun ripensamento. La decisione del Consiglio dei Ministri è stata quella di mettere questo riassetto fiscale nel quale crediamo, per mettere in campo le tre misure di cui abbiamo parlato, che valgono complessivamente 8,7 miliardi nel 2013, non potevamo rinunciare a introdurre la stretta sugli sgravi già nel 2012. In caso contrario sarebbe mancato l'anno prossimo circa un miliardo di copertura. Ma è ancora possibile un ripensamento sulla retroattività in Parlamento? Chiede Forché. Discuteremo insieme, la risposta di Grilli. Si dovrà fare una scelta, al Parlamento può prendere una decisione diversa. Senta, ma anche lei ha detto che è la regola quella di violare lo statuto del contribuente, ma così il cittadino ha sfiducia e dice: quello che è a favore dello Stato scatta subito, quello che è a mio favore con tutta calma. E qui Grilli risponde: in realtà il fenomeno del prima e dopo questa volta non ci sarà, tutti gli effetti avranno luogo insieme nel 2013. Poi, come ultima domanda, Grilli ritorna sulla polemica che lo ha coinvolto personalmente sulle presunte consulenze in Finmeccanica per la ex moglie, risponde: ho già risposto con una lettera al Sole, lì ho dato la mia risposta, la mia storia parla da sola con i miei comportamenti. Nel frattempo è uscito l'audit interno a Finmeccanica che ha certificato l'inesistenza di qualunque consulenza alla mia ex moglie. Riguardo alle chiamate invece con l'ex presidente della BPM Ponzellini, chiacchierate assolutamente private con una persona con la quale ho un rapporto familiare da sempre, non possono mettere in dubbio né la mia professionalità né la mia moralità. Questa è l'intervista che trovate sul Sole 24 Ore a Vittorio Grilli. Però monta una polemica, ritorna in auge una polemica sull'acquisto dei caccia F-35. Ricordate, per un certo tempo è stata una polemica molto, molto più aspra. Ora è ritornata questa polemica perché, come sapete, l'Italia ha firmato dei contratti anni fa per l'acquisto di F-35, aerei cacciabombardieri, per rinnovare il parco aerei della nostra aeronautica militare. La polemica sorge perché già molti dicono: in tempi di crisi è il caso di comprare questi aerei. Ora il costo di questi aerei è aumentato. Ci avevano detto che costava 80 milioni di euro e invece adesso il modello base è sui 96 milioni di euro, può arrivare fino a 105 milioni di euro. Caccia F-35, altro che tagli, costo più che raddoppiato, così titola l'Unità a pagina 6, ma è anche l'apertura di prima pagina del manifesto. Business class, questo è il titolo del manifesto in prima pagina con un F-35 fotografato. Gli F-35 sfuggono alla spending review. Ne compreremo di meno, ma li pagheremo molto di più. Per ogni caccia bombardiere l'Italia sborserà il doppio degli 80 milioni di dollari annunciati dal governo in Parlamento solo qualche mese fa. Il costo previsto totale lievita da 12 a 16 miliardi. Questo è l'annuncio del Ministero della Difesa. Anche sulla stampa, a pagina 2, c'è questa polemica e ci si chiede effettivamente se sia il caso di continuare allora di procedere con questo acquisto. Non c'è davvero un modo per fermare questo? È davvero necessario? Questa è la domanda che si fanno i giornalisti e i quotidiani che mettono questa notizia in pagina. Anche Francesca Paci, a pagina 2 della stampa, sale il prezzo degli F-35, riesplode la polemica, non compriamoli più. E staremo però a vedere. Ovviamente ci sono dei contratti, però chiaramente, visto che tutto si può rivedere anche in formula retroattiva per quel che riguarda il fisco, il cittadino medio si potrebbe chiedere se non siano da rivedere, se non sia possibile rivedere anche dei contratti già firmati o no, o è chiedere troppo. Passiamo alla politica. Da una parte c'è la regione Lombardia con Formigoni che ha detto si deve andare a votare entro Natale. A questo punto è lui che sembra avere più fretta degli altri. E invece ieri il segretario della Lega, Maroni, gli ha detto: beh, non perda la testa. La situazione più interessante, secondo i giornali, è che, secondo Repubblica e Libero, ci sarebbe un vero e proprio accordo tra Berlusconi e Maroni. L'accordo porterebbe a sacrificare Formigoni, che ha detto non è opportuno che Maroni sia il candidato di tutti, visto che lui, la Lega, ha fatto cadere, questa è la versione di Formigoni, ha fatto cadere la giunta. E però guardate i titoli: Repubblica, Berlusconi sacrifica il celeste, al Pirellone è meglio se va Bobo. Carmelo Lo Papa e Rodolfo Sala, pagina 11 di Repubblica: Formigoni si deve rassegnare, deve capire che non può dettare ancora le condizioni. Roberto Maroni è la soluzione migliore per la regione. Questa è la frase attribuita a Berlusconi, un Berlusconi che per la verità è sempre più silente. Secondo il suo portavoce Bonaiuti ha un po' di febbre, è chiuso ad Arcore. In realtà questa è la versione ufficiale, la versione invece ufficiosa pare altra, sia per Libero, sia per i giornali, sia per il Corriere della Sera, con Paola Di Caro, cioè un Berlusconi che ha annullato un pranzo in programma con Monti e che non è andato a Bucarest, non va a Bucarest al congresso del popolo, del Partito Popolare Europeo, insomma il cappello del Popolo della Libertà in Europa. Perché? Perché secondo il Corriere della Sera Berlusconi non ha alcuna intenzione di mettere la sua faccia accanto a quelle ufficiali del Popolo della Libertà, né quando incontra Monti né al PPE. Per lui ormai tutto è finito, il partito è finito e pensa solo a quando lanciare la sua lista. Anche per Repubblica, sempre attribuito a Berlusconi, è: ma che ci vado a fare lì? Come dire, il Popolo della Libertà tanto non c'è più. E insomma, comunque avrebbe fatto questo accordo politico. Anche per Libero, Silvio gioca l'ultima carta, che è questa: Maroni candidato al Pirellone. Dunque un Berlusconi pronto a scaricare in qualche modo, rottamare, uso una parola molto in voga di cui discuteremo anche tra poco, Formigoni, per mantenere un'alleanza politica con la Lega in Lombardia. Interessante tra l'altro a pagina, prima pagina del Corriere, e poi prosegue a pagina 13, un articolo di Dario Di Vico sul fatto che uno scenario vede un Formigoni che sarebbe stato anche un po' scaricato dai vertici di CL. Ha creduto di essere diventato il capo e adesso CL vuole il divorzio dal Celeste. Nel movimento tanti si vantano di lavorare perché non nasca una lista con il suo nome. Singolare, per esempio, scrive Dario Di Vico. È interessante il fatto che il vicepresidente del partito del Parlamento europeo, Mario Mauro, lunedì da Gad Lerner, Ciellino Doc, abbia detto che non ha minimamente preso in considerazione l'ipotesi di una lista Formigoni e invece ha esplicitamente indicato come candidato al Pirellone un non Ciellino, Gabriele Albertini. Un modo per dire, scrive Dario Di Vico, noi abbiamo già dato e stare fermi un turno non ci può che far bene. A proposito di stare fermi un turno, che succede nel centro-sinistra? Lo vedremo tra un attimo. Devo dire che forse la frase del giorno, però, sempre per concludere la questione Lombardia, è le intercettazioni. Intercettazioni che stanno letteralmente, si può dire in questo caso, sputtanando. L'ex assessore Zambetti arrestato e accusato di aver comprato voti dall''Ndrangheta. Ora c'è anche questa intercettazione che recita testuale così. Colui che era considerato il legame con il boss dell''Ndrangheta a un certo punto dice a un suo compare: dobbiamo trovare per Zambetti un paio di troione, perché quello va matto per le femmine, lo spellano veramente, organizziamo una bella cenettina. Ecco. Nel centro-sinistra invece c'è questo dibattito che continua sulla cosiddetta rottamazione o non rottamazione, termine fascistoide oppure no. Matteo Renzi si è molto arrabbiato per questo termine che in pratica Michele Prospero gli ha pioppato dall'Unità di ieri, tanto che Matteo Renzi scrive carta e penna, prende carta e penna, scrive una lettera al direttore dell'Unità: trovo ingiusto che il quotidiano fondato da Gramsci scriva oggi che rottamazione è una parola fascistoide, si può criticare. Non pretendo che tutti la pensino come me, ma sono sconvolto, ci sono punti di insulto oltre cui non riesco ad andare. Oggi, cioè ieri, il 16 ottobre 43, nel ghetto ebraico di Roma si consumava il rastrellamento di 200 persone, nessun bambino tornò a casa quel giorno, un fatto che ancora oggi offende il cuore degli italiani, e quando si parla di fascismo si parla di questo. Conclude Renzi, spero che l'Unità si scusi. In realtà Claudio Sardo, il direttore dell'Unità, non si scusa. L'Unità è un giornale che racconta al PD, le primarie, il centro-sinistra, la sfida per il governo del paese senza ipocrisia, senza edulcorare la portata dei dissensi e della battaglia politica. Continueremo a farlo. Che Matteo Renzi si sia offeso per le dure parole di Prospero mi spiace moltissimo. Sono convinto che Prospero non avesse intenzione di dare del fascista a nessuno, ma la percezione dell'offesa da parte di Renzi è per me una ferita. Così Claudio Sardo, direttore dell'Unità. Insomma, questa vicenda. Molti giornali titolano che Bersani ha scaricato D'Alema. Allora, se la si vuol vedere un po' con malizia, un po' è così. Cioè, Bersani ha detto: io non chiederò a D'Alema di candidarsi. In realtà D'Alema fa un'intervista a Repubblica, intervistato da Massimo Giannini, dice: ma che scontro, il titolo è io difendo la nostra storia e sbaglia chi mi crede finito, ma quale polemica, sono perfettamente d'accordo col mio segretario, certo che mi aspettavo le sue parole. Pierluigi ha detto una pura e semplice verità che chiunque conosce le regole e lo statuto del nostro partito può verificare: non è il segretario che decide le candidature, c'è una procedura prestabilita e c'è un organo preposto, quell'organo si chiama direzione ed è lì che si decide. Questo ha detto Bersani e questo dico anch'io. Poi un D'Alema che comunque dice: vuole che dica, glielo dico, avevo già deciso di non ricandidarmi 2 mesi e mezzo fa, si figuri se aspetto Renzi non mi interessa, mi interessa invece molto l'operazione politica che sta dietro la cosiddetta rottamazione, a quella mi oppongo. Insomma, presidente D'Alema, lei si candiderà o no alle prossime elezioni? Perché questa è la domanda chiave. Ho già risposto a questa domanda. Valuteremo insieme al momento opportuno. Ma se c'è qualcuno che pensa che io sia ormai un cane morto, credo proprio che in termini di consensi reali nel partito, nel paese, si stia sbagliando e se ne accorgerà. Ecco, questo è il D'Alema, il carattere di D'Alema che viene fuori pronto come dire, a combattere fino all'ultimo. Sapete che cosa racconta il Corriere della Sera? D'Alema va in giro a dire di Bersani, non lo so se è veleno, ma questo lo dice il Corriere della Sera. Così dice D'Alema di Bersani, questa battuta: certo, ora abbiamo Monti che parla inglese, poi avremo Bersani che parla in emiliano. Ecco, anche questo, secondo i giornali, è un po' il carattere di D'Alema, tanto che già da ieri si profila il sospetto che D'Alema voglia dire in qualche modo: devo affondare politicamente in questa battaglia, vabbè, magari portiamo giù qualcuno con me. Vi segnalo che Sallusti, Alessandro Sallusti, è stata stralciata dall'anticorruzione la norma che riguarda il carcere e il giornalisti, e quindi in questo caso Sallusti. Mancano 10 giorni all'esecuzione della sua pena in carcere per una condanna per diffamazione. Il giornale titola così: la casta dei politici ricondanna Sallusti, che in un duro editoriale parla di ipocrisia, di mediocri della politica, tira in ballo Fini e Giulia Bongiorno, che hanno brigato dietro le quinte per affossare la legge salva Sallusti come vendetta per il caso Casa di Montecitorio. Di Pietro idem, nonostante a parole garantisse personalmente il contrario. La rottamanda Finocchiaro, capessa saccente dei senatori PD, non ha neppure avuto il coraggio di dichiarare la sua contrarietà. Nel PDL è un fuggi-fuggi di colonnelli e colonnelle. Insomma, posso io rimanere professionalmente e personalmente appeso all'ipocrisia di questi mediocri che ho mantenuto per anni pagandogli con le mie tasse amanti, vacanze e vizi vari? Direi di no. Così Sallusti, che chiede si esegua la condanna, cioè anche invita la procura, che finora non mi ha mandato e non mi ha notificato l'ordine di carcerazione. Come mai questo trattamento di favore? Cosa c'è? Vi vergognate di quello che avete fatto? Coraggio, tirate fuori le palle e soprattutto non fate giochini strani sulla mia pelle. Così Alessandro Sallusti, oggi direttore del giornale, in prima pagina. Chiudo con Schettino, come sempre in questi giorni c'è l'incidente probatorio, escono e dichiarazione di Schettino al momento dell'urto. Le ultime sono queste: sta entrando acqua, quando si è reso conto, ma tanto è calma piatta. E poi ci pensi Dio, si sarebbe raccomandato dopo lo schianto. Schettino, durante il naufragio: stiamo imbarcando acqua, ci pensi Dio. Non abbiamo problemi, dobbiamo solo mettere i passeggeri a mare, ma se ci mandate dei mezzi, per cortesia, alla Capitaneria di Porto. Siamo pronti a parlare con i nostri ospiti. La prima ospite di oggi, voglio salutare, la ringrazio per essere con noi, si tratta di Lucia Borsellino. Buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Lucia Borsellino è una dirigente della Regione Sicilia della Sanità, un cognome importante per l'Italia, e non a caso. Lucia Borsellino è la primogenita del giudice ucciso dalla mafia in Via D'Amelio. Vogliamo parlare del perché lei abbia deciso di accettare l'invito che le ha fatto Rosario Crocetta, uno dei candidati al governatore della Sicilia, e cioè, dovesse vincere Crocetta, lei ha accettato di ricoprire un incarico in giunta, se non sbaglio proprio l'assessorato alla sanità, sì, reparto in cui lei... Perché ha fatto questo? Perché ha scelto in questo modo? Ho dato la mia disponibilità a mettermi al servizio della collettività in un momento particolarmente impegnativo della mia vita professionale. È una dimensione assolutamente nuova di impegno politico che ho assunto appunto a seguito delle sollecitazioni pervenutemi in tal senso dal candidato presidente del PD ed apprezzate anche a più livelli istituzionali, per contribuire ad un progetto di rinnovamento in cui credo in un settore cui è legata da circa 20 anni fino ad oggi tutta la mia esperienza professionale. Ecco, proprio quello della sanità, tra l'altro. Attualmente la sanità, l'assessore è un ex magistrato. Sì. Dovesse diventare lei assessore la figlia di un magistrato famosissimo in Italia e nel mondo, ucciso dalla mafia. Ma c'è davvero bisogno di questo per governare la sanità in Sicilia? Io mi sto accostando a questo impegno certamente con il peso della storia che porto, che non posso negare perché è parte di ciò che sono. Quindi vorrei non dovermi più nascondere e comunque poter dare il mio volto, le mie azioni, la mia professionalità a questo impegno, chiedendo di potermi misurare con ciò che so fare. Quindi non mi qualifico in questa nuova dimensione come figlia di un magistrato, quanto piuttosto come una figlia di una società civile che è vissuta, ha avuto la fortuna di vivere in un mondo intriso di valori, quantomeno quello che mi è stato insegnato, e cerco quindi di mettere questo mondo a servizio della società. Ma soprattutto nella sanità, nel campo della sanità c'è bisogno, secondo lei, di questo? Perché ovviamente è il campo che fa girare anche il maggior numero di denaro e dove si annida il rischio della corruzione. Io credo che la proposta che mi sia stata fatta in questo settore mi sia stata fatta proprio in ragione della esperienza che vi ho maturato all'interno. Certamente la sanità è uno dei settori più complessi, se non il più complesso della pubblica amministrazione, proprio perché gestisce la maggior parte delle risorse di un bilancio regionale. Parliamo del 60-70%. Infatti. Senta, lei credo anche in un'altra intervista ha parlato comunque di scelta meditata, molto immagino anche sofferta. Sì. Si sarà posta anche il problema di non venire percepita come una bandiera della legalità da sventolare? Questo è un rischio che io e la mia famiglia abbiamo sempre corso fin dal momento in cui ci è stato sottratto il nostro congiunto. È un clima di tensione nel quale purtroppo abbiamo vissuto in tutti questi anni, per cui so benissimo che la mia scelta non è scevra da possibili strumentalizzazioni. Credo però di avere il diritto comunque di potermi esprimere e di non considerare il mio nome sempre come un peso, ma come un tesoro da portare con me. Questo certamente. Gli ultimi due governatori, Cuffaro e Lombardo, per motivi molto molto ben diversi, hanno avuto problemi con la mafia. Cuffaro addirittura in carcere, Lombardo per la verità è solo imputato, magari dimostrerà tutta la sua innocenza. Questo che considerazione le fa fare sulla Sicilia, sulla sua regione? Io sono perfettamente consapevole, perché ne sono ahimè anche una vittima, che questa è una terra estremamente difficile, nella quale peraltro non sono mai riuscita a identificarmi per la sua profonda contraddittorietà e incoerenza tra ciò che appare e ciò che è. È una società che è strana, quella nostra, perché rivendica le sue risorse migliori ma allo stesso tempo le costringe a nascondersi. Ecco, io credo che, ed è l'unico auspicio che ho anche nel compiere questo passo, che attraverso l'impegno delle persone oneste si spingano le risorse sane di questa società ad emergere e a fare in modo che la parte malata di essa non ne adombri il valore. E da questo punto di vista, il fatto che Crocetta sia appoggiato anche dall'UDC, cioè quella forza politica che in passato ha espresso Cuffaro, le crea qualche problema? Allora, anche qui io so perfettamente, perché mi è stato insegnato che le organizzazioni perfette non esistono, probabilmente sono anche soltanto un'utopia, per cui anche in questo senso bisogna assumersi una chiara responsabilità e cercare di rispondere anche delle proprie azioni, sempre in quell'ottica di cui dicevo prima, che le azioni delle persone oneste possano prevalere e trascinare anche con sé, anche in un'ottica di redenzione, anche coloro che questo principio non ce l'hanno ben chiaro. Le chiedo questo, da osservatrice esterna delle cose che succedono in Lombardia, da cittadina italiana, ma sicuramente non disinteressata, visto quello che è emerso, che effetto le fa sapere che probabilmente l'andrangheta, la criminalità organizzata, si è comprata dei voti di una persona che poi è diventata assessore? Allora, è sicuramente uno scenario inquietante. Io credo che, ritornando alla nostra regione, anche all'impegno che chi come me, ma anche altri, intendono assumersi, bisogna far prevalere, come ho detto, logiche diverse e cercare di affermare la parte migliore della società. Non voglio lasciarmi trascinare anche dallo sconforto rispetto allo scenario nazionale, perché questo porterebbe inevitabilmente a indebolire le risorse sane di questa società, che invece in questo momento proprio devono trovare il coraggio di emergere. Ma perché lei poco fa ha detto prima non si identifica, ho capito male, non si identifica con la Sicilia, diciamo, non si identifica con questa terra fatta di tante contraddizioni? Guardi, io sia quando mio padre era vivo, ma anche nella fase successiva, ho sempre avuto la sensazione di che le persone oneste fossero poche in questa terra, o comunque fossero costrette in qualche modo a nascondersi o a volte anche a fuggire. Io conosco tante persone che purtroppo, prese dallo sconforto, sono andate via perché non trovavano qui le giuste condizioni per poter esprimersi. Vorrei proprio sfatare questa sensazione e cercare di dare un contributo per far sì che miei conterranei possano invece trovare qui il coraggio di poter e la forza di poter esprimere ciò che sono. Cioè che si riescano a identificare davvero con questa terra straordinaria, che non sentano come unica ancora di salvezza quella di allontanarsi dalla Sicilia. Politicamente ha un'idea di Beppe Grillo? Cioè, visto che è lì nella vostra regione, sta facendo molti comizi, e dice anche la Sicilia non ha bisogno dell'Italia, dovrebbe avere la possibilità, altro che autonomia, proprio di staccarsi addirittura dall'Italia. Io vorrei, spero che mi venga consentito, vorrei non dover esprimere dei giudizi politici, non sono fatta per questo, come ho detto questa è una dimensione nuova nella quale mi accingo ad operare con l'unico spirito di mettere a servizio di tutti la mia professionalità. Io intendo la politica come l'espressione più alta dello spirito di servizio. I giudizi reciproci non fanno certamente bene alla politica. È un tecnico lei, vuole stare come il governo Monti, vuole fare più un tecnico della sanità. Lei è pronta a ogni tipo di attacco? Cioè, diranno anche che è una persona che sta, uso questo brutto verbo, utilizzando una tragedia per fare carriera politica. Ci sarà anche chi dirà questo, lo sa? Già è avvenuto. È avvenuto? Da parte di chi? Questo me lo sono attacchi che, ma basta leggere sulla stampa, sui canali di comunicazione anche online, è pieno di critiche nei confronti della mia persona e della scelta che mi sto accingendo a fare. E nonostante ciò lei va avanti, questo immagino di sì, ma che l'hanno fatta esitare in qualche modo in questo tipo di scelta? Io chiedo, come ho detto, di potermi misurare con le mie azioni, quindi ci sarà tempo anche per potermi giudicare su ciò che veramente so fare e che vorrei poter fare per la mia terra. So che ha anche detto non ci saranno problemi con mia zia Rita Borsellino, che invece appoggia un altro candidato. Assolutamente no, i rapporti con mia zia sono rapporti umani e familiari che prescindono da qualsiasi scelta politica. Le chiedo come ultima cosa questo: lei, i suoi fratelli, sua madre, siete sempre stati molto custodi, molto gelosi della memoria di vostro padre Paolo Borsellino, però le devo chiedere qualcosa su questo. Le devo chiedere, per esempio, secondo lei, se suo padre sarebbe contento di questa sua scelta, cosa le direbbe secondo lei se fosse qui? Allora, proprio in conseguentemente a quello che è stata la nostra gelosia, come lei l'ha definita, del nostro dolore e del nostro ricordo soprattutto, io vorrei continuare a serbarlo dentro di me. C'è chi ha detto che mio padre non sarebbe affatto contento di questa scelta. Io chiedo solamente di avere il buon gusto di non parlare a nome suo dal momento che non ha la possibilità di poter controbattere rispetto a questa affermazione. Lei dice: se non lo facciamo noi familiari, tantomeno dovrebbe farlo qualcuno che neanche in famiglia è. So che valore ho e ho avuto per mio padre, basti questo. Io la ringrazio, ovviamente in bocca al lupo, e staremo a vedere, seguiremo questa avventura. Intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie per ancora. Essere stata con noi. Voglio ricordare Lucia Borsellino, è la primogenita del giudice Paolo Borsellino, ucciso con la scorta in Via D'Amelio, e che ha deciso di mettersi a disposizione della politica. Nel caso dovesse vincere Rosario Crocetta alle elezioni in Sicilia, ha accettato di poter ricoprire il ruolo di assessore alla sanità nella regione. Poi torniamo sul tema, come ieri, della rottamazione, termine fascistoide, secondo Michele Prospero, e Renzi si è molto arrabbiato oggi sull'Unità, ha scritto una lettera dicendo chiedetemi scusa, o rinnovamento, c'è D'Alema che dice ma non è Bersani che deve decidere, è il partito, molti giornali titolano Bersani rottama D'Alema, D'Alema fa un'intervista a Repubblica e dice ma che, non c'è nessuna polemica, è tutto chiaro, ma chi mi crede è un cane morto, si ricrederà. Insomma, il PD di fronte, il centro-sinistra di fronte a questo dibattito su rinnovare o rottamare. Che succede all'interno del Partito Democratico? Renzi prende carta e penna, scrive all'Unità e dice chiedetemi scusa per avere utilizzato attraverso l'intellettuale Michele Prospero il termine fascistoide associato alla rottamazione. Mentre Bersani dice non chiederò a D'Alema di ricandidarsi, oggi D'Alema fa un'intervista a Repubblica in cui dice chi mi crede un cane morto dovrà ricredersi e soprattutto ho deciso 2 mesi e mezzo fa di non ricandidarmi, mica aspetto Renzi, a me di Renzi non frega nulla. E D'Alema che ieri invece aveva detto questo, sentiamolo. Sono d'accordo con Bersani. Beh, Presidente, però, ha detto esattamente quello che si deve dire, cioè queste sono decisioni che aspettano il partito. D'altro canto la procedura è scritta nello statuto, quindi Bersani ha giustamente polemizzato con la teoria della rottamazione e ha spiegato la verità, cioè non è un capo che fa le liste da noi, anche se vince le primarie, ma sono gli organismi dirigenti del partito. Anche se circola questa battuta, almeno scrive il Corriere della Sera che Bersani sia stato definito da D'Alema così, o D'Alema vada in giro a dire di Bersani questo. Certo, ora abbiamo Monti che parla inglese, poi avremo Bersani che parla in emiliano. Abbiamo con noi la portavoce della campagna elettorale di Pierluigi Bersani, Alessandra Moretti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E abbiamo il coordinatore della campagna elettorale di Matteo Renzi, Roberto Reggi. Buongiorno, ben ritrovato a Reggi. Buongiorno, insomma, buongiorno. Insomma, abbiamo Bersani e Renzi, questa è la vera cosa. Alessandra Moretti, allora, oggi le devo chiedere questo. 2 giornali, Il Fatto e La Stampa, titolano così, Bersani rottama Renzi. La Stampa è più sfumata. Bersani scarica, D'Alema. Bersani rottama D'Alema. Bersani rottama D'Alema. E la Stampa è più sfumata. Bersani scarica D'Alema. È davvero questo che è successo ieri? Ma no, guardi, io penso che poi, vabbè, i giornali cercano un po' la polemica, giustamente. In realtà, insomma, Bersani non ha detto nulla di diverso rispetto a quello che ha ritenuto di dire ieri Massimo D'Alema, cioè che nel nostro partito ovviamente non è una persona che decide alla Casaleggio e via chi deve restare e chi invece se ne deve andare, ma semplicemente sono gli organismi di partito che decidono sulla base di uno statuto, quante appunto legislature, in questo caso sono 3, e chi potrà chiedere di deroghe. Secondo la posizione di Bersani, qual è? È quella di non chiedere di candidarsi ad D'Alema, ma non trincerandosi dietro semplicemente alle regole, anche come posizione personale, cioè l'idea sarebbe quella di rinnovare, quindi D'Alema basta, D'Alema come altre? Ma guarda, Pierluigi Bersani ha messo in atto in questi anni in cui è stato lui il segretario un processo di rinnovamento dal basso molto importante. Basta girare l'Italia, io lo sto facendo, e vedere centinaia di amministratori, sindaci, segretari di partito, parlamentari anche, insomma, molto giovani, devo dire, insomma, spesso al di sotto dei 30-35 anni. È evidente che poi noi riteniamo che ci sia bisogno di un patto tra le generazioni e che un partito, un grande partito come il nostro, è fatto di nuove leve, certamente, sì, necessarie, perché il rinnovamento se non lo fai sei destinato a morire, ma è necessario anche tenere e mantenere dei presidi di esperienza. Cioè questa volta in gioco la posta è talmente alta che noi dobbiamo mettere in campo le migliori esperienze, fatte di gente preparata, capace, giovane, che c'è, sperimentata, come le chiama Bersani, sperimentata. Ma anche di esperti, di persone. Penso proprio di sì, no? Rottamare le piace a lei? Rottamare è fascistoide o le piace? Ma io non ritengo che sia un termine fascistoide. A me, guardi, la violenza verbale non piace. Non piace la rottamazione perché mi sa un po' violenta come parola. Ecco, non la userei, ecco, non la userei perché la trovo un po' rancorosa. Ecco. Mi piace invece parlare di rinnovamento. La rottamazione cosa vuole? Lo si fa con le cose, con gli oggetti, con i motorini, come direbbe Bersani. Reggi, eccoci qua. La rottamazione si fa con i motorini. Perché Reggi, perché Matteo Renzi ha scritto una lettera all'Unità pretendendo le scuse per quel fascistoide? Perché intanto fascistoide è un termine molto, molto offensivo, insomma, per chi sa qual è stata la storia del fascismo, gli effetti che ha creato, è davvero una cosa terribile da sopportare. Io rottamazione credo... no, invece, insomma, perché Moretti dice è volgare, è un po' rancoroso. Avrebbe potuto dire è necessario un ricambio progressivo della classe dirigente politica in modo tale che nel tempo giusto si possa arrivare a divenire a un gruppo di giovani che sostituiscono gli anziani. In una parola, l'ha detto in maniera un po' ruvida, però mi sembra che abbia colpito nel segno. E infatti adesso il primo rottamatore è diventato Bersani. Noi possiamo dire di aver raggiunto il primo obiettivo. Ma la Moretti ci smentisce questa cosa, invece lei dice... Ritroviamoci fra due settimane, Milano, e vedremo un po' cosa sarà successo, nel senso che a questo punto la resistenza di Bersani a noi, la resistenza di D'Alema a noi fa molto gioco, come avrà capito, perché è il nostro miglior alleato di campagna elettorale, insomma. Il fatto di rinnovare, di sostituire progressivamente personaggi importanti come sono stati D'Alema ed altri è utile ed avviene in tutti i settori. Abbiamo visto addirittura Inzaghi e Del Piero che hanno rinunciato al loro ruolo, pur essendo ancora dei campioni, uno è diventato allenatore, l'altro è andato all'estero. Ma nel calcio è diverso, a un certo punto fisicamente non ce la fai più. Inzaghi è ancora, anche nella politica non c'è più lo stesso entusiasmo. Guarda, io ho fatto il sindaco 10 anni, sì, e per fortuna c'è una legge che dice dopo 10 anni ti devi fare da parte, perché è giusto che venga qualcuno. Sì, ma voi siete lì proprio con allora con la carta d'identità, cioè dire dopo, questione, dopo 30 anni non hai più l'entusiasmo, non hai più... Attenzione, perché uno può rimanere in politica facendo dell'altro, aiutando, ma dando una mano in un altro ruolo, come fanno Inzaghi facendo l'allenatore, sì, no? Ma allora senza... cos'è? C'è la necessità di avere sulla cadrega, lo direi alla milanese, ma voi capite tutti, sulla sedia, sul posto delle persone nuove, semplicemente una corsa alla sedia per persone nuove? No, vabbè, insomma, questi hanno dimostrato, dopo 20 anni in cui hanno occupato quel posto di responsabilità, di aversi portato in una situazione non troppo felice, direi, no? Quindi la nostra richiesta è: vi fate da parte per favore, che proviamo a sperimentarne degli altri che hanno magari sul territorio trovato soluzioni ai problemi seri, hanno sperimentato con successo delle iniziative di soluzione dei problemi concreti. Ecco, proviamo. Però Reggi, le devo chiedere questo riguardo a una sua frase ieri che ha suscitato polemiche sia a lei, se la conferma, e anche Alessandra Moretti. Lei ieri ha detto: li attendiamo sulla riva del fiume uno a uno. Sì, come si attende però detto cinese il cadavere che passa. Come sempre accade, quando si vuole screditare un avversario politico si estrapola da un discorso, no, una frase. Io in realtà avevo detto un'altra cosa, ho detto: guardate, se D'Alema si aspettava una reazione di appoggio da Bersani, sarà rimasto deluso, e Bersani infatti è diventato il principale rottamatore. A noi quindi incassiamo questo risultato, non ci resta altro che vedere man mano quelli che arriveranno, ma ovviamente io non mi riferivo mica dei cadaveri, perché ci mancherebbe. Al limite cadaveri politici, a questo punto noi possiamo spostarci sul secondo obiettivo e speriamo di trascinare Bersani anche sul secondo obiettivo, cioè? Quello di dare l'esempio. Prima era il rinnovamento, abbiamo usato la parola rottamazione, vabbè, un po' ruvida, ma siamo arrivati all'obiettivo. Adesso il secondo obiettivo è dare l'esempio, cioè dimezzare il numero dei parlamentari, eliminare i vitalizi, diminuire le indennità in modo tale che i consiglieri regionali guadagnino meno di Ma questo chissà se c'è tempo. Intanto Alessandra Moretti, le piace o ha trovato troppo ruvida anche la posizione di Reggi ieri, adesso un po' più sfumata, dice, hanno estrapolato una frase del... Ma... Guardi, io sono abituata a stare molto attenta alle parole e anche al linguaggio che uso, perché in un momento in cui, in un contesto come quello attuale, in cui c'è molto rancore, molto livore, anche giustamente giustificato nei confronti della classe politica italiana, che spesso non ha dato il buon esempio, noi che rappresentiamo le istituzioni e che abbiamo dei ruoli insomma importanti, dobbiamo cercare sempre di stare molto attenti, perché potremo scatenare poi ovviamente delle reazioni a catena che insomma potrebbero essere pericolose. Ma guardi, io dico questo, mi pare che l'atteggiamento, diciamo, di Reggi sia un po' quello, lo ripeto, di un casaleggio della sinistra. Sono loro che decidono chi sta e chi viene, no? Siccome il Partito Democratico non è un partito, diciamo, unipersonale, non è un partito fatto di una persona unica, ma è fatto da, è composto da un collettivo, allora bisogna rispettare il collettivo e bisogna rispettare le regole che ci siamo dati. Allora, io ritengo che intanto questa cosa di Bersani rottamatore la trovo quantomeno ridicola. Noi il rinnovamento, e Bersani in primo luogo l'ha fatto con i fatti e non con le chiacchiere, riteniamo che tra le generazioni debba esserci un patto, cioè mi piace molto di più pensare ad un patto tra generazioni piuttosto che una guerra tra generazioni. Sventolando la carta d'identità io non risolvo i problemi del paese. Sì. La sfida è talmente impegnativa oggi che sinceramente porla solo su questo piano mi sembra stucchevole. No, ma perché dire, cioè, diciamo, questo è un primo passo. Allora, siamo con Alessandra Moretti, che è la portavoce della campagna elettorale di Pierluigi Bersani, e siamo con il coordinatore della campagna elettorale di Matteo Renzi, vale a dire Roberto Reggi, alias Reggi, il casaleggio della sinistra, ha detto, cioè casaleggio, chiariamo, è quel guru che secondo molti decide tutto per Beppe Grillo, chi si candida, chi non si candida, fa gli esami e poi decide tu sì, tu no, tu vai bene, tu vai male. Casaleggio della sinistra, Reggi. Beh, intanto ho i capelli corti io, quindi poi vabbè, mi sembra un po' offensivo, Alessandra, questo abbinamento. Anche perché chi mi conosce sa che non ho proprio queste modalità, stiamo lavorando con migliaia di amministratori, tantissima gente che lavora insieme a noi, e poi sai, riuscire a condizionare Matteo Renzi non è mica una cosa semplice. Ecco, appunto, perché viene accusato, no, però, anche lui di essere d'altro molto, canto, molto... Mi sembra, Alessandro, che non vorrei però che noi lasciassimo passare quelli che sono i cicci e coccò della politica. Cioè, l'equivalente del facimma muina in napoletano, sì, no? Sì. Muoversi dove, per non fare nulla, esatto, no? Quelle chille che allora, stengoppa, bravo, va. Ecco, allora noi siamo arrivati in un sistema dove tutti dicevano di voler fare le cose e non cambiava mai nulla, no? Si voleva fare il rinnovamento, ma le facce erano sempre quelle e la gente rimaneva sempre al loro posto. Grazie all'arrivo di Matteo, non c'è dubbio, abbiamo ottenuto questo rinnovamento che anche l'altro soggetto che si candida alle primarie, che è Pierluigi Bersani, ha fatto suo, benissimo. E vogliamo fare anche il resto, anche sull'altro obiettivo, Alessandro, anche sull'altro obiettivo. Perché fa ridere questo? Perché, ma Alessandro? Via, ma pensate che sì, scusa Alessandro, ma io stavo finendo di parlare, sì. Io non ti ho interrotto, scusa. Va bene, ma dai, la parola al conduttore. Sì, sì. Dai Moretti, sì, dai, poi dopo torniamo a Allora, ma insomma, si pensa che un grande partito come il Partito Democratico arriva uno, voglio dire, no? Che è del PD e che spesso non frequenta manco le direzioni nazionali, che sono i luoghi deputati a decidere, e stabilisce lui, perché fa una telefonatina, una buttata sui giornali, che grandi personalità come Veltroni, D'Alema se ne decidono. Vabbè, che adesso no, però, una telefonatina, no, vabbè, adesso mi fai ridere te. Nel senso che non ha deciso però Alessandra, no. Moretti, però è vero che Matteo Renzi ha posto questo problema in maniera serio e casualmente questo problema succede anche il resto. Ma il resto anche, cosa? Anche sulla operazione sul Parlamento, quanti anni è che lo dicono? E continuano a fare cici e coccò. Allora, adesso c'è il taglio vedrete, dei parlamentari. Adesso il vedrete che nei prossimi giorni. Ma noi non siamo maggioranza, allora Alessandra, scusami. Allora, Alessandra, scusami. Mi sembra veramente. Allora, adesso vedrete che anche su questo secondo punto Bersani ci inseguirà e diventerà lui il protagonista di questo, sarà il braccio, tra virgolette, armato di Renzi. Lei sta dicendo, esatto, che Bersani è il braccio armato di Bravissimo, Renzi. Bravissimo Alessandro, l'ha scoperto anche lei. No, no, l'ha detto lei, io ho usato le sue parole. Secondo lei, che sarà così. Cioè fa tutte le cose per bruciare perché adesso Renzi. È in rincorsa, per rincorrere in avanti. Perché fino adesso l'ha detto, ma non l'ha fatto. È stato in Parlamento anche lui come gli altri e non l'ha fatto. Allora, questa è un po' l'accusa. Alessandra Moretti, effettivamente, allora, molti giornali hanno notato, nel momento in cui c'è Matteo Renzi giovane, Bersani ha presentato una squadra di giovani, di cui fa parte anche lei, per rinnovare. Insomma, insegue in avanti Renzi, cerca di... Scusate, ma siate un po' obiettivi, e anche la carta stampata chiederei di essere un po' più obiettiva, perché guardate che io in direzione nazionale ci sto dal 2009 e sono diventata vice sindaca nel 2008. C'è una generazione di amministratori giovani che sta facendo il proprio mestiere sui territori grazie a un rinnovamento che è partito dal 2009 in avanti. Sì. Non diciamo sciocchezze. Tra l'altro vorrei anche aggiungere che quando Reggi mi dice questa espressione, insomma dobbiamo cambiare, certo che dobbiamo cambiare, noi lo stiamo facendo concretamente il cambiamento, ma Tomasi di Lampedusa diceva nel Gattopardo, diceva bisogna che tutto cambi perché nulla cambi. Questo motivo, leitmotiv, della rottamazione, mi sembra che vada a coprire quelli che sono i problemi reali del paese, che poi noi il rinnovamento lo stiamo già mettendo in campo, indipendentemente da quello che ci viene a dire Renzi, perché vede, a Renzi io l'ho visto solo un paio di volte in direzione nazionale e ci ho detto... dovresti venire un po' più spesso in direzione, perché ci potresti dare anche una mano. E lui che cosa perché le battaglie, le rivoluzioni, quelle più difficili, le fai dentro gli organismi di partito. E lui che le ha risposto? Lui probabilmente, evidentemente, si trova anche un po' a disagio in direzione, perché quando non è amatissimo. Ma non è che non è amatissimo, non è molto conosciuto. Le sue idee non le conosciamo esclusivamente attraverso i giornali, non attraverso un confronto democratico e sereno che deve attivarsi all'interno degli organismi del partito. Effettivamente. Ma perché Renzi non ci va a Reggi alle direzioni nazionali del partito? Perché non ci fa parte? Le volte che ci è andato, le cose che si sono impegnate a farlo non hanno fatto una, cioè anche quello, no? Ho capito, ma sembra allora l'immagine di un Renzi che è di un partito, ma non gliene frega niente del partito. No, non è vero, in realtà, infatti ha deciso di rimanere nel partito, avrebbe potuto fare tutt'altra cosa, no? Avrebbe potuto fondare un altro partito. Mi dica la verità, ci ha mai pensato Renzi a fare una lista fuori? Ognuno di noi ci ha pensato, facendo l'amministratore locale abbandonato in questi anni, ci ha pensato, ci avrà pensato anche la Moretti di fare qualcosa ci hanno pensato tutti gli amministratori che in questi anni sono stati abbandonati a loro stessi. Ma dal partito? Dal partito anche, non solo dai governi, e devono soddisfare ai bisogni dei cittadini, non hanno più risorse, non hanno più possibilità di spendere neanche i soldi che hanno e se ne fregano tutti bellamente, anche il partito. Quando si va nel partito a chiedere dateci una mano, che siamo noi quelli che risolviamo o proviamo a risolvere i problemi sul territorio, dicono di sì e poi non fanno nulla, votano le leggi che tagliano ulteriormente senza distinguere la spesa produttiva da quella improduttiva, senza distinguere i bravi da quelli che sperperano, in maniera lineare. Le hanno votate tutte, anche i nostri partiti. Quindi insomma un senso di abbandono c'è. Io mi devo fermare qui, però intanto vi strappo, se volete, il piacere di un altro invito, quando volete siete benvenuti, anche perché devo dire, Alessandra Moretti, con una discussione, qua si parla del Partito Democratico, al centrodestra non ne parliamo perché sono un po' più allo sbando lì, difficoltà. Un appello che io faccio a quelli del centrodestra che vorrebbero venire a votare alle nostre primarie, ecco. Che si facessero anche loro le primarie, magari nello stesso giorno delle nostre, così evitiamo possibili inquinamenti spiacevoli per il nostro elettorato. Oppure votano due volte, vanno prima a votare quelle del centrodestra e poi votano a quelle del centrosinistra. Tanto va bene, vi ringrazio. Grazie ad Alessandra Moretti, portavoce della campagna elettorale di Bersani, e grazie a Roberto Reggi, coordinatore della campagna di Matteo Renzi. Avete visto, no? Che dibattito fervido nel centrosinistra. Ci fermiamo qui. Grazie a tutti in redazione. Ci troviamo domani alle 6:30.